Ad alta voce, Patrizia Zappamulas legge Nemici, una storia d'amore, di Isaac Singer. Traduzione di Bruno Dera. Era il secondo giorno che nevicava. Nell'appartamento di Chiffrapois mancava il riscaldamento. Il portiere, che abitava nello scantinato, giaceva nella sua stanza, stordito dal vino. La caldaia si era guastata e non si trovava nessuno che la riparasse. Chiffrapois si aggirava per casa, con pesanti scarpe imbottite, avvolta in una pelliccia lacera che aveva portato dalla Germania, la testa fasciata da uno scialle di lana. Aveva la faccia giallognola per il freddo e l'irritazione. Si era messa gli occhiali e andava avanti e indietro, leggendo il libro di preghiere. Ora pregava, ora imprecava contro quegli imbroglioni che erano i proprietari di casa, i quali lasciavano gelare in pieno inverno i poveri inquilini. Le labbra le erano diventate livide. Lesse un versetto a voce alta e disse: «Come se non avessimo già avuto abbastanza guai prima di venire qui, ora possiamo aggiungere l'America all'elenco. Non è poi tanto migliore dei campi di concentramento, manca soltanto un nazista che venga a picchiarci». Masha, che quel giorno non si era recata al lavoro perché si stava preparando ad andare a una festa in casa di Rabbi Lamper, rimproverò sua madre. «Mamma, dovresti vergognarti. In Germania, se avessi avuto quello che hai adesso, saresti impazzita dalla gioia». «Quanta forza ha una creatura! Là, perlomeno, ci sorreggeva la speranza. Non c'è parte del mio corpo che non sia gelata. Forse potresti comprare un braciere. Mi si sta congelando il sangue». «Dove vuoi che vada a trovarlo un braciere in America? Ce ne andremo di qui. Aspetta soltanto che arrivi la primavera». «Non resisterò fino alla primavera». «Vecchia strega, vivrai più a lungo di tutti noi!» L'irritazione rese stridula la voce di Masha. La festa alla quale lei e Hermann erano stati invitati dal rabbino l'aveva resa frenetica. Anzitutto si era rifiutata di andare, sostenendo che, con ogni probabilità, dietro l'invito si celava Leon Torschiner con qualche trappola in mente. Lei sospettava che la visita del rabbino in casa sua e il fatto che l'avesse fatto ubriacare con lo champagne facessero parte di un complotto di Leon Torschiner per separarla da suo marito Hermann. Masha seguitava a disprezzare il rabbino, definendolo un uomo senza spina dorsale, uno spaccone, un ipocrita, e quando aveva finito con lui disprezzava Leon Torschiner, dicendo che era un maniaco, un impostore, un provocatore. Dopo la falsa gravidanza, Masha non era più riuscita a dormire di notte, nemmeno con l'aiuto delle pillole. Se alla fine si addormentava, la destavano gli incubi. Suo padre le appariva avvolto nel sudario, le urlava versetti della Bibbia nell'orecchio, vedeva bestie fantastiche con corna attorcigliate, grugni appuntiti, avevano tasche, tette ed erano coperte di piaghe, latravano, ruggivano, sbavavano su di lei. Masha aveva mestruli dolorosi ogni 2 settimane e le uscivano grumi di sangue. Chiffrapois la esortava ad andare dal medico, ma lei diceva di non credere nei medici e giurava che avvelenano i pazienti. A un tratto però cambiò idea e decise di andare alla festa. Perché avrebbe dovuto avere paura di Leon Torschiner? Aveva ottenuto da lui sia il divorzio rabbinico sia quello civile. Se avesse usato sottovalutarsi, si sarebbe limitata a voltargli le spalle. Se si fosse spinto oltre, gli avrebbe semplicemente sputato in faccia. Hermann notò, una volta di più, come Masha passasse da un estremo all'altro. Cominciò a prepararsi per la festa con crescente entusiasmo. Spalancò armadi, aprì cassetti, tirò fuori vestiti, scarpe. La maggior parte di quel guardaroba lo aveva portato dalla Germania. Decise di modificare un vestito. Cucì, strappò via le imbastiture, fumò una sigaretta dopo l'altra, tolse dai cassetti mucchi di calze, di biancheria. Non faceva che chiacchierare, raccontando come le fossero corsi dietro gli uomini, prima della guerra, durante la guerra, dopo la guerra, nei campi di concentramento, negli uffici del comitato misto. Ogni tanto abbandonava il lavoro di cucito per scovare vecchie lettere e fotografie come prove. Hermann si rese conto che ciò che lei desiderava era trionfare alla festa, lasciare in ombra tutte le altre donne con la sua eleganza, con la sua bellezza. Aveva saputo sin dall'inizio che, pur mostrandosi prima contraria, Masha avrebbe deciso in ultimo di andare. Lei doveva sempre trasformare in un dramma ogni cosa. I radiatori cominciarono a sibilare all'improvviso. La caldaia era stata preparata, la messa in vendita in fotocante, e Scifra qua si lagnò dicendo che il portinaio ubriaco stava senza dubbio cercando di incendiare la casa. Sarebbero state costrette ad andarsene, a scappare fuori nel gelo. L'appartamento sapeva di fumo, di carbone. Masha riempì la vasca da bagno con acqua calda. Fece tutto contemporaneamente. Preparò il bagno, intonò canzoni in ebraico, yiddish, polacco, russo, tedesco. Con una rapidità stupefacente aveva ricavato un vestito nuovo dal vecchio, trovato un paio di scarpe dal tacco alto e una stola che qualcuno le aveva regalato in Germania. Verso sera aveva smesso di nevicare, ma l'aria continuava a essere gelida. Le vie del Bronx sembravano in tutto e per tutto le strade invernali di Mosca. Scifra Pois, che disapprovava l'idea della festa, borbottava a proposito degli ebrei che non avevano il diritto di darsi ai divertimenti dopo l'Olocausto. Tuttavia esaminò l'aspetto di Masha e suggerì qualche miglioramento. Assorta com'era, Masha aveva dimenticato di mangiare e sua madre preparò un po' di riso e latte per lei per Herman. La moglie del rabbino aveva telefonato a Masha spiegandole come si arrivava nella West End Avenue dove abitavano. Scifra Pois voleva a tutti i costi che Masha si mettesse un maglione o un paio di mutande pesanti, ma sua figlia non intendeva ragione. Ogni pochi minuti beveva una sorsata da una bottiglia di cognac. La notte stava già scendendo quando Herman e Masha uscirono. Una folata gelida parve afferrarlo alle spalle e gli strappò il cappello dalla testa. Lui lo ghermì a mezz'aria. Il vestito da sera di Masha si gonfiò come un pallone. La neve alta le imprigionò una delle scarpe mentre cercava di camminare. La calza si bagnò. I capelli acconciati con cura e soltanto in parte protetti dal cappellino divennero bianchi come neve, come se fosse invecchiata in un secondo. Si tenne il cappello con una mano e con l'altra abbassò la gonna. Gridò qualcosa a Herman, ma il vento portò via la sua voce. Il tragitto fino alla sopraelevata, per il quale occorrevano di solito soltanto pochi minuti, si rivelò una grossa impresa. Quando alla fine arrivarono, un treno era appena partito. Il bigliettaio, seduto in un cubicolo riscaldato da una stufa di ferro, disse loro che i treni ritardavano sui binari coperti di neve e che non si poteva sapere quando sarebbe arrivato il prossimo. Masha rabbrividì e continuò a saltellare per scaldarsi i piedi. Aveva la faccia mortalmente pallida. Passò un quarto d'ora e non arrivò nessun treno. Si era ormai formato un gruppo numeroso di passeggeri in attesa, uomini con stivali di gomma, soprascarpe e il cestino della colazione, donne coperte da pesanti giacchette con fazzoletti sulla testa. Ogni faccia sembrava esprimere, a modo suo, noia, avidità, ansia. Le fronti basse, gli sguardi turbati, i nasi larghi, le grandi narici, i menti quadrati, seni pieni, fianchi larghi, confutavano ogni visione dell'utopia. Il calderone evolutivo stava ancora ribollendo. Un solo grido avrebbe potuto provocare tumulti lì. Un poco di propaganda giusta avrebbe potuto trasformare quel gruppo in una canaglia disposta a un pogrom. Un fischio risuonò e il treno si avventò nella stazione. I vagoni erano semivuoti, con i finestrini bianchi di ghiaccio. Faceva freddo nel vagone e il pavimento era coperto di fanghiglia, di giornali sudici, di gomma da masticare. «Può esistere qualcosa di più laido di questo treno?» si domandò Herman. «Tutto qui è lugubre, come se fosse stato costruito appositamente a tale scopo». Un ubriaco cominciò a tenere una concione, cianciando di Hitler e degli ebrei. Masha tolse uno specchietto dalla borsa e si sforzò di vedere la propria immagine riflessa nel vetro appannato. Si inumidì le punte delle dita e cercò di lisciarsi i capelli, che il vento avrebbe soltanto scompigliato di nuovo non appena fossero usciti. Fino a quando il treno corse in superficie, Herman guardò fuori, attraverso un punto del finestrino che aveva ripulito dall'appannamento. Giornali volavano nel vento, un droghiere stava spargendo sale sul marciapiede davanti al suo negozio. Un'automobile cercava di uscire da una cunetta, ma l'uomo si sviluppava, ma sempre nello stesso punto. Herman ricordò a un tratto la propria decisione di diventare un buon ebreo, di tornare alla Gemara. Quante volte aveva preso decisioni del genere? Quante volte aveva tentato di sputare in faccia agli aspetti terreni e materiali della vita? Eppure, ecco che ora stava andando a una festa. Una metà del suo popolo era stata torturata, assassinata, e l'altra metà organizzava feste. Si sentì sopraffatto dalla compassione per Masha. Sembrava dimagrita, esangue, malata. Era tardi quando discesero dal treno e vennero a trovarsi nella strada. Un vento impetuoso soffiava dal fiume Hudson gelato. Masha si avvinghiò a Herman, che doveva opporsi al vento con tutto il suo peso per non essere trascinato via. Neve gli rivestiva le palpebre. Masha, ansimante, gli gridò qualcosa. Il cappello cercò di strapparglisi dalla testa. Le falde del cappotto e i calzoni gli frustavano le gambe. Fu un miracolo se riuscirono a distinguere il numero della casa del rabbino. Lui e Masha si gettarono con il respiro corto nel vestibolo. Lì c'erano tepore e silenzio. Quadri dalle cornici dorate pendevano alle pareti, tappeti coprivano i pavimenti, lumiere diffondevano una luce morbida, divani e poltrone aspettavano gli ospiti. Masha si avvicinò a uno specchio per tentare di rimediare in parte ai danni causati al vestito e al suo aspetto. «Se riuscirò a sopravvivere a questa sera, non morirò mai», disse. Mise al suo posto, rigirandolo tra le dita, un ultimo ricciolo e si diresse verso l'ascensore. Herman si raddrizzò la cravatta e il colletto sembrava troppo lento intorno al collo. Una specchiera rifletté tutti i difetti della sua figura e del vestito. Aveva la schiena curva e sembrava macilento, era dimagrito, cappotto e vestito gli stavano troppo larghi. L'uomo dell'ascensore esitò un attimo prima di aprire la porta. Quando l'ascensore si fermò al piano del rabbino, osservò sospettosamente Herman che suonava il campanello. Nessuno venne ad aprire. Herman sentiva il chiasso, le conversazioni e la voce sonora del rabbino nell'appartamento. Dopo qualche minuto una cameriera negra in grembiule bianco e cuffietta bianca aprì la porta. Dietro di lei c'era la moglie del rabbino. Si trattava di una donna alta, statuaria, ancor più alta del marito. Aveva capelli biondi ondulati, il naso all'insù e indossava un vestito lungo, color oro. Era coperta di gioielli. Tutto in quella donna sembrava ossuto, appuntito, lungo, gentile. Lei abbassò lo sguardo su Herman e Masha e gli occhi le si illuminarono. A un tratto apparve il rabbino. «Eccoli qui!» sbraitò e tese entrambe le mani, una a Herman e l'altra a Masha, al contempo baciando Masha. «È davvero una bellezza!» gridò. «Ha accalappiato la più bella donna d'America! Eileen, guardala!» «Mi diano i cappotti, fa freddo, vero? Temevo che non sarebbero potuti venire. Mio marito mi ha parlato tanto di loro. Sono davvero lieta!» Il rabbino cinse alla vita Masha e Herman e li condusse nel soggiorno. Si aprì un varco tra la ressa, presentandoli man mano che procedevano. Attraverso la nebbia del fumo, Herman vide uomini ben sbarbati, con minuscoli zucchetti sopra i folti capelli, nonché uomini senza zucchetto, e uomini con il pizzetto o le lunghe barbe. Si notava tanta varietà nel colore dei capelli delle donne, quanta ce n'era nelle tinte dei loro vestiti. Si parlava l'inglese, l'ebraico, il tedesco, persino il francese. Si sentivano nell'aria odori di profumi, di liquori, di fegato tritato. Un maggiordomo si avvicinò ai nuovi arrivati e domandò che cosa gradissero bere. Il rabbino condusse Masha al bar, lasciando indietro Herman. Mise il braccio intorno alla vita di Masha, guidandola come se stessero danzando. Herman si augurò di potersi mettere a sedere in qualche posto, ma non vide alcuna sedia libera. Una cameriera gli porse un vassoio di pesci assortiti, carne fredda, uova sode, cracker. Lui tentò di infilzare mezzo uovo sodo con uno stuzzicadenti, ma l'uovo scivolò via. La gente parlava così forte che lo strepito lo assordava. Una donna rise in modo stridulo. Herman non era mai stato a un ricevimento americano. Aveva immaginato che gli ospiti si sarebbero seduti e che sarebbe stata offerta una cena, ma non c'era posto per sedersi, né venne servito alcun pasto. Qualcuno parlò in inglese. Con tutto il chiasso non riuscì a distinguere le parole. Dov'era Masha? In nome del cielo! Sembrava che fosse stata inghiottita dalla ressa. Si fermò davanti a un quadro e rimase lì a contemplarlo, senza alcun motivo particolare. Entrò in una stanza con numerose poltrone e divani. Le pareti erano rivestite di libri dal pavimento al soffitto. Alcuni uomini e alcune donne sedevano l'intorno, tenendo in mano dei bicchieri. C'era in un angolo una poltrona libera ed Herman vi si lasciò cadere. Il gruppo di donne stava parlando di un professore che aveva ricevuto una sovvenzione di $5,000 per scrivere un libro. Stavano prendendo in giro lui e i suoi iscritti. Herman sentì nomi di università, di fondazioni, di borse di studio, di sovvenzioni, di pubblicazioni sul giudaismo, sul socialismo, sulla storia, sulla psicologia. Ma che donne sono mai queste? Come mai sono così ben informate? Pensò. Si vergognava del suo modo di vestire, dimesso. Temeva che potessero invitarlo a partecipare alla loro conversazione. Io non sono fatto per questo ambiente. Sarei dovuto restare uno studioso del Talmud. Spostò la poltrona in modo da voltare quasi le spalle al gruppo. Tanto per fare qualcosa, tolse dagli scaffali una copia dei dialoghi di Platone, l'aprì a caso sul Fedone, lesse queste parole. Può sembrare improbabile che coloro che si interessano sinceramente alla filosofia, in realtà si limitino a studiare come morire e come essere morti. Sfogliò le pagine all'indietro e gli occhi gli caddero sulle parole «perché io credo sia contro natura che un uomo superiore debba essere danneggiato da un uomo inferiore». Era davvero così? Era contro natura che i nazisti avessero trucidato milioni di ebrei? Un cameriere si affacciò sulla soglia e annunciò qualcosa che Herman non capì. Tutti si alzarono e uscirono dalla stanza. Lui rimase solo. I nazisti, si immaginò, si trovavano a New York, ma qualcuno, forse il rabbino, lo aveva murato in quella biblioteca. Il cibo gli veniva servito attraverso un'apertura della parete.